Il documentario si chiama Qua l'Allegria e qualcuno forse insomma già dal nome capirà che coinvolge in una maniera un po' particolare Lucio Dalla, perché è il titolo di una sua canzone. Il documentario ha una storia un po' lunga e incrocia appunto da un lato la figura di Lucio Dalla, dall'altro una storia personale che mi riguarda, che riguarda la mia famiglia, perché io quello che ho provato a fare è riprendere un vecchio gioco familiare, quindi nasce quasi dalla mia infanzia. Io ho uno zio che da bambino giocavo in qualche modo a vedere, a immaginare come fosse Lucio Dalla. Mio zio è una persona disabile, è una persona molto complicata, molto divertente, che ha una sorta di somiglianza fisica, ma vorrei dire anche un po' spirituale con Lucio Dalla. Sono persone complesse, divertenti, con tante qualità difficili da inquadrare, e io usavo appunto la figura di Lucio Dalla per capire meglio mio zio, e ora ho provato in questo film, ora che non sono più un bambino, a riprendere quel gioco e rimetterlo in scena attraverso questo film. Noi come casa di produzione abbiamo avuto la fortuna di poter incontrare alcuni degli amici di Lucio Dalla, persone che hanno diviso tour, pezzi di vita con lui. Fra questi in particolare c'è stato Stefano Cantaroni, che è un artista, ma anche Fabio Medda, e siamo andati a raccontargli il progetto. Sono rimasti sorpresi da questa idea di fare un film, forse non su Lucio Dalla, ma diciamo con Lucio Dalla, e ci hanno letteralmente regalato delle immagini inedite del Lucio Dalla privato. Ma Lucio Dalla era un tipo di persone che sia sul palco che fuori dal palco erano sempre se stessi, e quindi sono immagini molto belle di momenti conviviali, di momenti privati, dove però lui ha, come dire, la sua strana follia sempre, quella a cui siamo abituati anche quando appunto lo vediamo in contesti più pubblici. Noi, grazie anche all'aiuto della Fondazione Lucio Dalla, che ha capito questo strano progetto e l'ha appoggiato, siamo riusciti ad avere l'intera colonna sonora di Lucio Dalla. C'è un discorso che ho voluto provare a fare anche con le musiche di Dalla. Il catalogo di Dalla è sterminato, mi sono concentrato su quelle canzoni non solo che amo di più, ma che riflettevano in maniera diversa sul tema del limite e sul tema invece della difficoltà. C'è una canzone che scrisse con Roversi che parla di un carcere minorile, c'è Cucciolo Alfredo, ci sono quelle che io pensavo potessero in qualche modo raccontare di più uno dei temi del film, che è appunto la difficoltà del limite di una disabilità, ma anche il bisogno di provare in qualche modo, non dico a superarla, ma a viverci dentro, attraversarla. Il documentario verrà presentato questo mercoledì, il 3 dicembre, al Cinema Modernissimo alle 17:45-18, diciamo. Iniziamo, ci saremo lì, oltre a noi della casa di produzione ci sarà la Fondazione Lucio Dalla, ci saranno tantissime cooperative, associazioni della disabilità che hanno supportato il progetto, ci sarà anche il Comune di Bologna che a sua volta ha supportato il progetto, e dopo un piccolo tour che abbiamo già fatto in tutta l'Italia ci fa piacere portare questo documentario ovviamente a Bologna.